précisément 20h. Della tela sonora, benvenuti. Benvenuti qui a Radio Alma 101.9. Venerdì sera ancora insieme. 22 maggio abbiamo con noi Giulietta Rachi, Gabriella T. E Paola Grauso in regia. Senti un po', Paola, che cosa ci hai messo di musica? Che sono sempre belli questi tuoi amici che suonano, i loro pezzi sono fantastici. Ho messo una canzone del palcoscenico di Napoli. Ah. La canzone si intitola Tra noi. Bene. Allora, cari amici, come voi sapete, la tela sonora non è soltanto uno spazio per la poesia, abbiamo i Che Nunca, abbiamo il Filo Rosso, abbiamo anche questi diciamo gruppi di giovani artisti che si lanciano nel campo dei concerti, della musica, a volte con grande fatica perché non tutti hanno un aiuto, hanno finanziamenti, ma dal momento che ci credono e hanno un amore verso la musica, riescono a farsi notare. Quindi la tela sonora acchiappa al volo queste occasioni e li invita a Bruxelles per i concerti che si tengono poi da Piola Libri o qua alle Space di AI, e poi proprio semplicemente per accompagnare il programma della tela sonora, la poesia e lo spazio dedicato alla parola. Allora, questa sera è stata, diciamo, è una sera particolare perché voi sapete qua a Bruxelles è festa, c'è il Grande Ponte, quindi siamo riusciti a trovare due poeti che invece in Italia lavorano e per loro festa non è mai, e sono Massimo Ferrando e Fernanda Ferraresso. Allora, in ordine Massimo e poi Fernanda, presentazione velocissima. Vi parleremo del libro di Massimo, edito da Fare Editore 2+2, e per dirvi che è un'esperienza surreale. Nell'esperienza mistica l'io si eclissa in un noi eterno, e qui io è sovrano. Tradotto il suo eccesso in parole accessibili, ecco il dispiegarsi dell'esperienza, la stessa che il mistico sperimenta per negazione. Due strade, medesima sorte. Quindi una poesia un po' diversa, e poi intervistiamo Massimo e ci spiegherà come mai. Fernanda Ferraresso invece la conosciamo perché avevamo già mandato dei pezzi, poi non siamo riusciti così a intervistarla per così problemi di connessione, e presenteremo il suo libro Migratorie non sono le vie degli uccelli, e poi edito dal Ponte del Sale, La bella scola, i canti del, se non erro, l'ottavo canto del Purgatorio. Una piccola premessa prima di andare a chiamare, non so se ne vuoi parlare tu, Giulietta. La scola, diciamo, La bella scola è un'idea che ha avuto Marco Munaro è il fondatore, il direttore della casa editrice Il Ponte del Sale, una casa editrice che è un'associazione senza scopo di lucro dove effettivamente i poeti che lavorano e quindi di cui fanno parte sono uniti da questo amore per la poesia, non certo dal profitto, perché queste case editrici veramente fanno fatica a esistere. Perché Fernanda quindi si è unita ad altri 7 o 6 scrittori e ha personificato il canto, diciamo che ha rivisitato a modo suo uno dei canti del Purgatorio. Noi avevamo già Brussellando presentato l'Inferno, Giulietta era presente, e avevamo anche presentato un bellissimo libro sulla poesia dialettale, ti ricordi Giulietta, una delle prime volte che abbiamo iniziato la tela sonora. Quindi per dirvi che Munaro è sempre nel nostro cuore, perché veramente il suo lavoro è un lavoro di eccellenza. Quindi dopo l'esperienza corsa affidando a poeti contemporanei la lettura canto per canto dell'Inferno, è ora giunto il momento di avventurarsi sulla montagna dell'Antipurgatorio insieme ai poeti Giuliano Scapia, Umberto Simone, che saluto affettuosamente, Sebastiano Gatto, Antonio Alleve, Nelvia Rimonte, Flavio Santi, Riccardo Ielmini, Fernanda Ferraresso appunto e Gianfranco Draghi, che salutiamo con particolare affetto. Gianfranco ha subito un grave danno alla sua casa in Toscana, è stata praticamente rasa a suolo da un incendio. Salutiamo Gianfranco, che anche lui ricordiamo spesso nei nostri cuori. Ciascuno di loro, vi dicevo, è, per quanto ne scrive la loro stessa poesia, parte in causa, quindi è come se avessero in qualche modo fatto loro uno dei canti del Purgatorio e l'avessero reinterpretato. Quindi li ringraziamo per aver accettato il rischio di mettersi in gioco e di averlo fatto nella coscienza di una lingua nostra fino all'inconsapevolezza. Come al solito, ogni commento è preceduto da una poesia, quindi chiederemo a Fernanda di leggere la sua, che tra le altre ha rivelato il poeta che più ci sembrava adatto, come se già Dante lo avesse pensato. Il paziente lettore scoprirà più avanti di volta in volta il perché. Quindi se avete voglia, tempo e così anche avete un budget da dedicare a Dante, cercate di farlo acquistando La Bella Scola e quindi rivisitare un po' il percorso fatto, eseguito da questo grande poeta, e a modo secondo questi poeti che hanno introdotto delle cose molto belle, delle riflessioni, ed è un continuo percorso, non si arresta lì. Ogni volta che sento Fernanda mi dice ho cambiato ancora, adesso lo risento in modo diverso, eccetera, eccetera. Ancora due parole, tutti abbiamo condiviso e moltiplicato entusiasmi scoperti alla scuola di Dante con i poeti, gli allievi del liceo artistico Roccati di Rovigo, guidati dai docenti Ottavio Girardello, Daniela Sardi e gli allievi dell'Istituto d'Arte Selvatico di Padova. Quindi altre citazioni, Marco li ringrazia, senza di loro La Bella Scola sarebbe stata sicuramente meno bella e meno vicina di quanto non sia, come l'avevamo sognata già nel 2002, quando iniziamo con i primi 7 canti dell'Inferno letto dai poeti e illustrato quindi dai ragazzi. Ringraziamo allora tutte queste personalità artistiche. Io direi, se Paola vuole mandare adesso la musica, perché oggi avremo una musica particolare, vero? Sì. Abbiamo altri 2 CD. Il primo è quello del Laboratorio Ripercussioni Sociali. Sì, ringraziamo, esatto, Lorenzo, che ci ha mandato il suo CD. E invece il secondo, che il secondo è di Esmeralda Sciascia e si intitola La Macchia. Benissimo. Allora, cosa hai intenzione di far partire? Adesso ascolteremo Esmeralda Sciascia. Perfetto. Allora, poi quando. Benissimo, lo decidi tu il pezzo. Sì. Eh? E sì, poi invece, ovviamente, quando parleremo di Laboratorio Ripercussioni Sociali di Lorenzo, vi spiegherò qual è l'intento. Magari Giulietta, se lo vuol fare, vi spiegherà qual è l'intento di questo di questa incisione di CD, che è molto, trovo molto particolare, molto bello. Quindi restate con noi, ascoltate. Sciascia? Sì. Benissimo. E non scappate, ci rivediamo con al telefono Massimo Ferrando. Congo, ya, ya, yo estaba buscando un congo que tenga 100. Buonasera amici della Tela Sonora, bentornati dopo aver ascoltato questo pezzo di Sciascia. Vero? Benvenuto sì. Tra di noi Massimo Ferrando. Ci sei? Ci sono. Ciao. Ti senti? Come stai? Bene, bene, tutto bene, tutto a posto. Sono sopravvissuto alla chiesa, diciamo così. No, scusa la risata, perché mi è successo no. Una sola volta di essere intervistata in radio ed ero in trepida attesa anch'io, quindi capisco certo. La tensione che c'è, e scusate cari poeti se a volte siamo in ritardo nel contattarvi, non lo facciamo apposta, a volte ci sono degli intoppi tecnici o semplicemente io che mi sbaglio di fare il numero. Allora, caro Massimo, abbiamo brevemente parlato del tuo libro 2 più 2, c'è un altro libro che tu mi hai spedito a casa. Sì. Di cui non mi ricordo più. No, 2 più 2 in realtà è una parte della raccolta, Per altra porta è il nome della raccolta. Perfetto. Poi, va bene. Poi hai fatto parte di un'antologia edita di Eto Colle. Esatto, curata da Anna Maria Farà. Perfetto, quindi noi sai che abbiamo questo amore sviscerale nei confronti di Anna, che è l'editrice del... Sì, ce l'ho anch'io, tra l'altro, non la conosco da moltissimo come poetessa, ma ho tutti i suoi libri, li leggo, li rileggo, sono molto affezionata a lei, l'ho sentita soltanto, ci siamo incontrati una volta sola, a dire il vero. Però apprezzo molto, e poi tra l'altro la voglio ringraziare anche per aver letto il mio libro, averlo apprezzato, insomma. Sì, e poi sembra che abbia un tempo, abbia nel suo sacco tantissimi minuti, tantissime ore, che non so da dove decisamente le pigli, perché è dappertutto, fa tutto, ha tempo per tutto, e vabbè. Infatti l'ho incontrata anche a Genova diverse volte, è venuta a fare delle letture, interessantissime, molto bene, proprio lì che l'ho incontrata, ci siamo scambiati insomma il libro, mi ha fatto due chiacchiere, molto affascinante come dialogo. Tipo, tu sei giovanissimo, sei nato nel 1972. Nel 70, oddio, giovanissimo, sì, contando che i poeti fino a 50-60 anni sono considerati giovani poeti, sì, in effetti sono giovanissimo. Bene, perfetto. Non ho ancora 40 anni. Anzi, è già un lusso essere considerati poeti a quell'età. In realtà è una cosa che si conquista invecchiando. Invecchiando, sì. E in allora, effetti io punterei a quello, intanto ad invecchiare, poi possibilmente magari ritagliarmi un piccolo spazio all'interno della letteratura. Chissà, andiamo, vedremo cosa porterà il futuro. Okay. Intanto allora, invecchiamo. Bene, poi. Pensiamo a vivere prima. Allora, senti. Esatto. Sei cresciuto al Sassello, un piccolo paese dell'Appennino, vivi nel tuo... Sì, e vivo tuttora qui, tra l'altro. Ho deciso di tornare un po' all'origine dopo vari anni di pellegrinaggi in giro per il mondo. E che fai di bello? Ma io faccio il lavoro vivo, o meglio sopravvivo del mio artigianato creativo. Ah, benissimo, letto. Realizzo cose, oggetti, e vado in giro poi a proporli in varie situazioni, mostre, fiere, eccetera. E quindi questo lavoro mi ha portato in giro per circa 10 anni, poi in Italia, ma anche all'estero, in Austria, in Francia. E ora invece sto poco a poco tornando un po' alle origini, perché sono molto legato alle mie origini contadine, e mi piace stare qui. Ho ricostruito un piccolo giardino, un piccolo paradiso, ho ristrutturato una casa in campagna e ora vivo qui della mia arte in parte, ma anche del mio orto, delle mie passeggiate nella natura. È una vita prevalentemente contemplativa, si può vedere anche dalla poesia che scrivo, insomma. Questo è il taglio che ho dato alla mia esistenza. Sei fotografo? No? Sei anche fotografo? Sono anche fotografo, sì. E a questo proposito ricordiamo che fra 2 settimane incontrerai Alberto Terrile per un workshop qui nella mia piccola tenuta, dove ogni tanto insieme a lui, ma anche insieme ad altri artisti, insomma, organizziamo un po' di cose, un po' di eventi, e appunto fra 2 settimane ci sarà questo incontro con Alberto e con i suoi allievi della scuola di Genova, che verranno su e passeremo 3 o 4 giorni insomma in mezzo alla natura a parlare di fotografia, ma possibilmente anche di poesia, perché no? Chi lo sa? Ci vuoi leggere una poesia? E perché no? Vai. Quale? Molto breve. Quale? Allora, la pagina, ora non so, fa parte di Dum Dum, che è una sezione interna del libro. Ok. È una sezione che parla appunto a proposito di natura, parla appunto del mio rapporto, del rapporto dell'uomo con la natura, del mio rapporto con la natura, visto che la vivo quotidianamente. È molto breve, non ha titolo e dice così: brancolano nel buio, bramiscono nel fitto bosco i branchi. stanchi di cervi a frotte, solitari, caproni del buio, bramini della notte. Eccola. Invece a me piace quella "io sono l'animale dalla lingua sciolta". Ecco, "io sono l'animale dalla lingua sciolta" è una poesia, è una delle poesie, in realtà non è una serie di poesie. Che fa parte di quella che è Massimo Morasso, che è colui che ha fatto l'introduzione al mio libro, che è mio caro amico anche, ha definito una suite esoterica, in un certo senso è vero. Sì, fa parte di appunto di questa lunga di questo piccolo poemetto, in realtà, che si chiama appunto 2 più 2. E niente, la particolarità di questo, io so dire poco di questo, in realtà, di questo piccolo poemetto, mi è già capitato altre volte di leggerlo pubblicamente, anche in quell'occasione non ho saputo dire molto, perché in realtà è stata scritta nell'arco di un'intera notte di febbraio del, non mi ricordo di che anno, non ho saputo dire niente allora e anche adesso saprei dire poco. Potrei casomai leggere invece le due brevi note introduttive proprio a questo poemetto, che in un certo senso sono un po' la chiave di lettura per il lettore. Vai, ora leggo io la poesia. Le due note introduttive sono queste. Allora, brevissima nota introduttiva al lettore interessato, questa è la prima nota. Questa è un'esperienza surreale, laddove nell'esperienza mistica l'io si eclissa in un noi eterno, qui io è sovrano. Tradotto il suo eccesso in parole accessibili, ecco il dispiegarsi dell'esperienza, la stessa che il mistico sperimenta per negazione. Due strade, una medesima sorte. Poi c'è la seconda nota, che dice che è una nota aggiuntiva per coloro che intendono penetrare il testo allusivamente. Bandito ogni dubbio, si affidi il lettore a ciò che di più vero e trasparente è nella sua natura. 2 più 2 non fa 4, e lucidamente il cuore conferma, intuitivamente, il non visibile è nominato. Ecco, queste sono le due note introduttive. Poi se vuoi leggere tu invece... Sì, la leggo perché mi piace. "Io sono l'animale dalla lingua sciolta. Sono l'anatra dal becco adunco, sono il lombrico dalla testa istrionica. Mia compagna è l'onda che sale, mio padre il corvo, mia madre la iena. I miei fratelli sono l'avarizia, la pigrizia e l'amore non corrisposto. Il mio cuore è il Colosseo, al centro le belve trovano pace". E vabbè. Lasciamo poi al lettore, insomma, le interpretazioni del caso. E senti, invece, perché ti sei messo a scrivere poesia? Ecco, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, perché in realtà io non mi sento un poeta per vocazione, ma casomai mi definisco un poeta per destino. In realtà non ho mai scritto poesie, se non fosse una brevissima poesia quando avevo 7 anni, ma così gradualmente a scuola. Poi c'è stata una lunghissima pausa, un lunghissimo buio, non ho mai avuto l'esigenza di scrivere, insomma. Quando ero ragazzino avevo ben altri obiettivi, i miei sogni erano di fare l'archeologo, l'astrologo, il giardiniere, tutta una serie l'astrologo. Di cose, ma sicuramente non il scrittore e non il poeta. E poi invece improvvisamente, intorno insomma, ai 23-24 anni, un'esigenza, una fortissima esigenza interiore mi ha portato invece a scoprire questa strana arte, questa strana e difficilissima arte, e da lì ho cominciato a scrivere, ma appunto è stata così un'esperienza improvvisa, non meditata, non preventivata, e quindi in un certo senso potremmo dire anche che è un sintomo, spero, di una certa autenticità anche. Perché appunto è nata così, non ha avuto altra origine, ecco. Secondo te, senti, qual è il futuro della poesia? Cioè, in Italia organizzi eventi culturali, sei scultore, sei un artista. Sì, ne ho organizzati un po', ora mi sono un po' fermato, perché in realtà decidendo poi di fare una vita piuttosto ritirata, proprio per coltivare questa passione, della poesia, ho deciso un po' di abbandonare il ruolo di organizzatore, perché era troppo impegnativa e mi portava un po' lontano da quelle che poi erano le mie esigenze invece più profonde, che sono appunto quelle di interrogare la parola, di interrogare il senso della vita, e quindi non so più rispondere a questa domanda. Il futuro della poesia in Italia non la conosco. Io mi limito soltanto a leggere, faccio appunto una vita molto ritirata, per cui non faccio altro che comprare libri e leggerli, però non faccio parte di gruppi, non partecipo raramente a incontri collettivi. A volte quando mi chiamano magari a fare delle letture pubbliche, se sento che è una cosa alla mia portata, che è una cosa buona, allora mi espongo, ma tendenzialmente sono abbastanza solitario, sia come carattere ma anche come scelta di vita. Poi penso che sia, in questo apprezzo anche appunto a proposito di Anna Maria Faraldi, anche questa sua volontà in un certo senso di esporsi, sì, però con molta parsimonia, con molta delicatezza, insomma. E quindi il futuro della poesia non la conosco, io conosco a malapena, conosco la mia di poesia. Veramente la conosco a malapena, più proseguo in questo mio percorso di approfondimento, più mi rendo conto che in realtà le cose da scoprire sono moltissime, e più mi rendo conto che la poesia non si finirà mai di conoscere, insomma. A proposito di vecchiaia, spero un giorno da vecchio di poter dire di aver capito qualcosa della poesia. Posso leggere una poesia io invece, che mi piace da matti, certo, sui bambini? Tutto ritorna, diceva una piccola creatura, tremolante al primo battito, nel fianco. Tutto ritorna. Liberi tutti! È questo il canto dell'eroe che salva il suo popolo? Nessuno deve cadere. Geniale il condottiero che conduce il suo esercito in battaglia, curandosi perfino del ronzino che in coda arranca sotto il peso degli scudi. Tutto ritorna. Liberi tutti! Urlano i bimbi giocando a nascondino. Liberi tutti! Era il gioco prediletto di un bimbo, fra i suoi simili dagli occhi chiari, aperti, nascosto fra i salici. È molto bella. Mi è piaciuta anche come l'avete letta. Ma noi abbiamo un'artista qua, la Giulietta, sì, sai. Perché io conduco, ma è lei la vera artista. Ogni tanto mi spiazza, mi fa tutte queste cose carine. Perché devi sapere che Giulietta è l'animatrice della sezione della tela sonora Ik e Nunc. Praticamente, Giulietta, perché non le parli te invece di far parlare me, così mi ripenso? Ti faccio parlare così. Sì, perché potresti dare un'idea a Massimo, che lo potrebbe fare anche lui in Italia. È uno spazio di musica performata, quindi fatta qui, soprattutto nello studio dal vivo, e soprattutto facciamo anche improvvisazioni musicali dal vivo. Quindi il poeta e il musicista si lanciano in un dialogo, diciamo. E la voce viene usata in modi molto sperimentali, proprio per dare espressione alla parola, poetica. Però mi piacerebbe leggere un'altra tua poesia, se c'è ancora tempo. Qual è? Così ti seguo. In fila la notte dall'alba. Ok. Fila, la notte, l'allodola al tramonto, e il pipistrello cattura il moscerino. Ruscello d'ombra, sei tu il giusto compendio di tutto ciò che è chiaro. Perché affidare ai devoti la giustizia, ai saggi la bontà perfetta? Torniamo subito. Espace DI, prochaine émission en direct le samedi 30 mai, avec comme artiste invité Benson. Espace DI. Benson, Espace DI, samedi 30 mai, 21h45 sur Radio Alma. Pour assister gratuitement, inscription sur radioalma.be. Perché che affidare ai devoti la giustizia, ai saggi la bontà perfetta, io onoro col mio sdegno per tutto ciò che è buono, la stessa volontà immutabile. Perché abbiamo i nostri diritti, lo sapete? Di essere vegetali, animali, di essere pietre invisibili e luminose, di essere gli insetti e le ali degli insetti. Un solo dovere, onorarci. Io ti onoro, corpo volubile e affettuoso, con tutti i tuoi escrementi, la lingua e il naso, sepolte nel tuo nome le virtù. Coi vizi tra le gambe, onoro il mio compito, procrearmi. Ho già in mente il mio erede, creatura nuova e imperiale. Io stesso risponderò a questo precetto. Purché sia erba, purché sia foglia, purché sia albero, radice, purché sia acqua, purché sia vita, purché sia infinita. Massimo, sì, ci assumi? Sì, volentieri. No, ma guarda che tu sei bravissimo, tu dici io mi trovo a fare il poeta per caso, ma che poeta per caso, è bellissimo. No, ma questa è, diciamo, quello che mi è successo, poi ora non lo sto facendo per caso, tutt'altro, oggi al contrario sono in realtà molto motivato, molto anche molto fedele alla mia scelta, è per come è capitata nella mia vita la poesia, che ritengo di essere appunto un poeta per caso. Ora sono assolutamente dentro il mio lavoro, dentro il mio percorso, lo faccio con convinzione, insomma. Bene, senti, noi avevamo un'idea, Giulietta ed io volevamo chiudere la serata leggendo E ora la sentenza, e la leggiamo, E ora la sentenza, e la leggiamo in un modo ancora diverso. Va bene. Ci dai l'autorizzazione? Certamente sì. Allora, e ora la sentenza. Non aspettatevi da me delicatezza. Combatterò e sarò spietato. In pace con i miei occhi. In pace con la mia bocca. In pace con le mie mani. In pace con i miei reni. In pace con le mie ossa. In pace con tutti i miei sensi accolgo l'ultimo fiore, il bianco papavero. Caro Massimo, mi è piaciuta molto. Bene. Quando vuoi al telefono ti richiamiamo e te la leggiamo un'altra volta. Va bene. Sei stato grazie un tesoro. Grazie di essere stato qui con noi. E soprattutto grazie. Disponibile all'ultimo momento, come al solito, perché io mi organizzo così. Poi mi ha fatto anche piacere ascoltare le poesie lette da qualcun altro, perché io non l'ho già lette troppe volte. Insomma, sentire invece qualcun altro che a modo proprio, con la propria sensibilità, le interpreta, insomma, mi fa piacere. Okay. Ascoltare una voce un po'. Bene, senti, ti salutiamo. Grazie mille. Un bacio grande e adesso niente, cari amici lettori e radioascoltatori, vi proponiamo un pezzo, perché poi andiamo a contattare Fernanda Ferraresso. Il pezzo questa volta è di Sone Palcoscenico. Oh, allora, due piccole introduzioni del laboratorio. Hai voglia, Giulietta, mentre io chiamo Fernanda, così sì, certo. Spieghi ai nostri ascoltatori. Beh, questo album si chiama Impronte Sonore, giusto? Paola? Sì. Ok, è del laboratorio Ripercussioni Sociali, e, praticamente diciamo che è un po' una scoperta dell'altro. Scrivono, impronte sonore è ascoltare prima di giudicare, significa non essere sordi alle voci di chi arriva da lontano. Impronte sonore vuol dire fermarsi e aver voglia di chiedere al prossimo da dove viene. E allora, con le impronte sonore raccolte in questo volume, vogliamo ascoltare questo viaggio alla riscoperta. Possiamo mandare in onda. Ok. Grazie. quindi diciamo erano ripercussioni sociali con Burilda. E ora diamo il benvenuto alla seconda ospite della serata, Fernanda Ferraresso. Ciao Fernanda, ci sei? Sì, ci sono, buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo fatto già una piccola introduzione del tuo libro Migratorie non sono le vie degli uccelli e La bella scuola con diciamo il purgatorio. Oggi ci siamo sentiti al telefono, abbiamo fatto una bella chiacchierata e lunga. E spero che anche oggi, così questa sera, riusciamo a fare lo stesso per i nostri amici radioascoltatori. Io sono un po' fusa, prima ho mandato in onda la musica. Anche se ormai il sole non c'è più, però è molto caldo. Ma mi dicevi che c'erano 35 gradi? Sì, penso di sì. Ci picchia, no, non è il caso di Ma quello che disturba molto è l'umidità, perché qui in Veneto e anche a Padova non c'è un caldo, come posso dire, secco, è molto umido, per cui è molto pesante. Sembra che siano più gradi di qua, non ce ne lamentiamo. Quando fa caldo proprio siamo già contenti a Bruxelles. L'umidità comunque c'è, luglio, non maggio, siamo in maggio, quindi siamo ancora in primavera, anche se vicini all'estate, però sembra fine luglio dal caldo che c'è. Quindi ti dà fastidio? È un po' pesante, però si vive bene. Senti un po'. Diciamo così, che si vive bene lo stesso. Facciamo un po' che invece di essere all'inferno dove fa un caldo pazzesco, con La bella scuola abbiamo deciso di salire un attimino e siamo al purgatorio. Ma non siamo in un gran posto. Siamo al canto ottavo, per la precisione. Mi ha messo Marco, perché è stato Marco a decidere dove collocarmi. Nella valletta dei negligenti, quindi già qui ho detto che sono negligente. E poi sì, è fiorita, perché è un bel posto, a dire il vero. Si sente ancora l'odore del mare, forse il ricordo del mare che si porta sempre dietro Dante e anche tutti gli altri, perché c'è la marea dei ricordi, la marea dei pensieri, non lo diciamo spesso. E in più c'è questa presenza, o meglio, c'è la possibilità di questa presenza, che è la famosa striscia, la biscia o striscia, Dante la chiama striscia, secondo me è ampiamente moderno in questa sua scelta, perché noi diciamo striscia per esempio dei fumetti, no? Oppure anche nei cartoons si usa dire la striscia, quella che si mette sopra per dare le spiegazioni. Quindi lui, che la chiama striscia, dà un insieme di significati a questo vocabolo che sta impastando lui, in pratica, perché la sta inventando la lingua. Quindi è meraviglioso proprio. La vuoi leggere? Ma io sono rotta, scusami. Pronto? Sì, sono qua. Dicevo, io stavo guardando nel libro della Bella Scuola. Tu hai a un certo punto introdotto una poesia, Un bosco capovolto. Sì. Perché è una poesia, immagino, tratta dal tuo libro Migratorie. No, è un'inedita. Quindi Marco l'ha letta, perché quando io insegnavo al liceo artistico di Rovigo, dove ancora lui insegna, ci vedevamo praticamente tutti i giorni e gli davo spesso questi fogli volanti che erano frutto magari di una lettura di qualcosa, oppure erano nati così da soli per idee che mi giravano per la testa. Lui aveva la pazienza di leggersele queste cose e poi le immagazzinava. Quindi quando ha deciso l'anno seguente, cioè quest'anno, che io sono stata trasferita a Padova, non insegno più al liceo di Rovigo, ma insegno a Padova, all'Istituto d'Arte, e lui si ricordava di questo testo e quindi me l'ha chiesto. Mi ha detto: io voglio quel testo lì, te lo ricordi, mandamelo per favore, perché io vorrei farti fare la lettura dell'ottavo, in cui appunto si parla di questa biscia, di questa serpe. Quindi tu mi stai bene lì. E allora gli ho ridato il testo e niente, e poi ha deciso appunto di assegnarmi questo lavoro. Questo lavoro. Senti, vuoi che la leggiamo o la vuoi leggere tu? Io non ho adesso, non ho il testo sotto mano, dovrei andarmela a cercare. Io ce l'ho. Leggi tu. Ok, Giulietta, vuoi leggere te? Cerco, sono nel mio studio, per cui la trovo al computer, spero, abbastanza facilmente, e poi casomai, oppure volevo leggersi io. Ma se lo leggi tu è meglio, perché la tela sonora... Però non è detto che io la trovi subito, perché appunto io non ho il testo pubblicato. Okay. Tu hai il... Sì, allora la leggo io, dai, la leggo io, così poi tu magari leggi qualcos'altro. Eccola qua, forse c'è. Trovata? Un bosco capovolto. Trovato, velocità del computer. Vai. Comunque, se vuoi farlo tu... No, vai, ci mancherebbe. Vai. Dentro il bosco, in una città, ho trovato un corpo e mi stai davanti, umido, segreto, un bosco capovolto dalle impronte, torri di ali, pagine di suoni sotto i piedi, vecchie sostanze, il tuo corpo, radici inquiete, cammini, decomposte vesti, vieni con me spostandoti in lievissimi fruscii, abiti le foglie, i sentieri, sorreggi i cordoni di insetti sopra la tua lingua, l'urgenza, il volo, la cattura e la preda, lo striscio, la trasparente, sottilissima muta, la velina di una serpe, la tua pelle, contro il mio passo, pesante, tra le erbe. Raccolgo il tuo occhio dentro agli schianti mentre ti intacco la schiena, scabra, tu dentro di me una freccia, movimento simultaneo, un respiro, senza tracciato un segno, l'approssimarsi del confine. Chissà Munaro che cosa pensava quando ha letto la tua poesia. Perché, quando è che lo vedi? Fra qualche giorno? Lo vedo domani mattina, sì. Perché facciamo le prove. Insieme a Umberto, Simone, no? Marco? Sì, Marco, no? Munaro, dice. Sì, ma c'è anche Umberto Simone, mi sembra. Sai che non lo so. Mi sembra di sì, perché mi pare di sì. Mm-hmm. Però con sicurezza adesso, in questo momento, proprio non te lo saprei dire. Ok. Che facciamo? Andiamo avanti sul canto o vuoi raccontarci qualcos'altro? Qual è stata la tua? Mi hai detto che l'hai rivisto, l'hai rivisitato, l'hai riscritto. Sì, Marco mi aveva dato l'incarico appunto l'anno scorso, in settembre mi pare, e dovevamo darglielo abbastanza velocemente, perché la sua idea era quella di pubblicare il testo entro dicembre. E tra l'altro poi erano state coinvolte anche le scuole, gli istituti d'arte e i licei, per produrre illustrazioni a questi canti o alle poesie dei poeti che erano stati appunto coinvolti. E quindi in dicembre io gli ho consegnato la mia lettura. Poi invece le cose sono andate un po' più per le lunghe, però sì, insomma, adesso il testo è stampato, pubblicato. Io purtroppo, siccome Marco non lo vedo spesso, non l'ho tra le mani, come non ho tra le mani nemmeno il mio. Okay. Non ne so nulla, ho solo le bozze, ma non ho il testo ancora. Lo vedrò, è molto bello domani, a un certo punto. Com'è. Me l'ha raccontato una mia carissima amica, che, come ti dicevo prima, dice che è la prima acquirente di questo testo, e la cosa mi è dispiaciuta, perché volevo regalarglielo, ma dall'altro anche felice, perché lei è proprio la prima in assoluto, quindi sono molto felice per questo. No, per aiutare chi ascolta, credo che sia imperativo leggere almeno il versetto iniziale. Per del purgatorio, sì, quello era già l'ora che volge il disio ai navicanti. Esatto, sì. Intenerisce il cuore, lo dica. Io proprio mi sono fermata nella prima terzina. Era già l'ora che volge il disio ai navicanti e intenerisce il cuore, lo di candetto e dolci amici addio. Ecco, io qui ci sono stata un mese, e non per scherzo, ci sono stato davvero un mese, perché le parole, invece di mangiarle, masticarle come siamo soliti fare, in me è come se si riformassero, si capovolgessero, proprio come nel testo che ho letto prima. E quindi questa muta della serpe per me è la mutazione della parola, la trasformazione. Quindi era, diventa la voce del verbo essere, diventa era la dea, diventa l'era geologica, e appunto prendendo tutti questi connotati configura un luogo che è estremamente vasto. Se poi ad era si unisce l'ora, qui adesso ci sono proprio due estremi talmente lontani che l'ampiezza della stanza, del luogo in cui tu ti trovi, è esageratamente vasta e quindi dentro ci sta di tutto. E poi cominciano a nascerti le domande: ma perché mette insieme questo era già l'ora? Quale ora? Mm-hmm. Era già l'ora, detto così ti sospende, no? Ti sospende da terra e ti mette in un luogo che non è il suo di Dante, ma diventa il luogo in cui tutti possono stare. Era già l'ora, e lì tu ci metti mm-hmm. dentro tutto quello che tu sei. Puoi mettercelo, Dante ti invita a farlo, e tutto quello che dice dopo, che volge il desio, i naviganti, eccetera, è proprio questo: portarti in alto mare, mm-hmm. in questo alto mare dove tu non hai più nulla di riferimento tranne te stesso, e in quel te stesso trovare l'isola, la terra, la barca, il movimento per andare verso, e scoprirai poi nel canto, secondo me, verso chi stai andando, perché quella biscia sei proprio tu. Quella mm-hmm. biscia, ecco un'altra parola che per me è stata importante, è che dentro sei al verbo scire, quindi imparare, e nello stesso tempo segna un percorso, segna un tracciato, ti fa vedere attraverso il movimento che crea qualcosa che non saresti stato capace di vedere. Cioè tu vedi una biscia ma non vedi il movimento, o viceversa, vedi il movimento mm-hmm. e sei più attratto dal movimento che non dall'oggetto, e lì comincia il tuo movimento, movimento di ricerca per vedere che cosa c'è. E tu cosa hai trovato? Tu cosa hai trovato? Ecco, che è nodale uh-huh. e sottolinea una condizione in cui noi tutti, secondo me, ci veniamo a trovare prima o poi, uh-huh. Vuoi perché per me l'esilio è essere distanti da, lontano da, perdere qualcosa o tutte queste cose insieme, per una malattia, per un addio, per qualunque tragedia, no? Ci può capitare, mm-hmm. ci porta in questo luogo, il luogo della distanza, della lontananza, della perdita, e in cui tu metti te stesso come baricentro, come isola su cui arrampicarti, perché altrimenti affoghi. Oggi pensavo, appunto, oggi quando ho riscritto questo testo, pensavo ai clandestini, cosiddetti clandestini, anche se di clandestino non hanno niente, però lo siamo tutti noi clandestini, che arrivano dalle rive dell'Africa ad altre rive, la nostra, e mi immaginavo, dicevo appunto, dunque la zolla dell'Africa e il continente europeo fanno parte della stessa piastra, eppure questi due si sono messi in movimento, si sono staccati dall'Africa. Loro vengono verso un pezzo di terra che faceva parte del loro continente, perché prima erano assieme. Mm. E noi diciamo che questa è terra nostra, e quindi loro non ci possono mettere piede. Tra l'altro le origini dell'uomo le ritroviamo lì, e ancora una volta diciamo: no, questa è terra nostra, e loro sono dei clandestini. Quindi anche questo per me è un'altra forma di esilio. Esilio da un riconoscimento, dall'origine comune, che anche naturalmente appunto possiamo trovare se ripercorriamo a ritroso il cammino, ci mettiamo in mare anche noi, facciamo il cammino inverso, andiamo a cercare le nostre origini, le origini dell'uomo, nome e cognome, uomo e basta, senza nazionalità, senza regionalismi, senza nazionalismi, l'unica nazione, l'uomo, in questa terra che è il purgatorio, tutta la terra è il purgatorio, il paradiso te lo costruisci quando ti sei arrampicato su nel cielo attraverso il visus di tutti gli altri uomini come te. E io parlo e noi ti ascoltiamo. Volentieri anche. No, non so se... No, mi hai fatto pensare a un libro che ho letto di Igor Sibaldi, che diceva appunto che queste persone, che è un po' un viaggio che lui fa insieme a dei maestri, i suoi maestri invisibili, e vede queste persone che a un certo punto entrano nell'acqua, si calano nell'acqua e affogano. E giustamente è molto simile alla cosa che ho visualizzato mentre tu parlavi, no? Due persone che vanno alla ricerca di se stessi ma non riescono, e quindi entrando nell'acqua è come se morissero e rinascessero, no? A nuova vita per riprovarci ancora, no? Quando ti ci prova ci sa. Ed è un po' una purificazione, un ritornare alle origini, eccetera, eccetera. Dante è l'unico corpo denso, diciamo, no? Tutti gli altri sono ombre, eppure, ecco, questo è un attimo, entriamo un attimo nel canto, nel momento in cui vedono Dante, quindi affiorano i loro ricordi, affiorano anche le passioni, le emozioni, i loro affetti, è come se riprendessero un corpo, certo. La tentazione, loro sono lì per espiare appunto le loro colpe e procedere verso il paradiso, però nel momento in cui, eccola qui, no, la tentazione è la biscia che perde la muta, perde il corpo esterno, nel momento in cui Dante arriva, quindi qualcuno come loro, che ha ancora il corpo intero, prendono un corpo di passioni, e quindi Dante li vede in virtù di quel corpo. Non è possibile vedere l'altro se l'altro non è vivo di qualcosa che appunto è il corpo, o il corpo dell'affetto, dell'emozione, della passione, oppure il corpo fisico. Dante ha il corpo fisico, ovviamente anche il corpo delle passioni, e l'altro invece, le ombre purganti, sono ombre. Lui le vede in virtù di questa passione. La tentazione è proprio quella di tornare indietro verso terra, verso la propria terra d'origine. Dante qui da Corrado Malaspina saprà che, anzi lui lo sapeva già, perché se guardiamo le date lo sapeva da parecchio tempo ormai Dante, però qui se lo fa dire chiaro e tondo, non c'è più tempo per tergiversare, se lo fa dire il dove, il come, il quando lui si trasferirà, lascerà la sua terra, la sua famiglia, i suoi averi, tutto in pratica, i suoi affetti, e si trasferirà, e quindi questa nuova casa, chi lo accoglierà, di nuovo mi riporta, no, a questi clandestini, perché anche Dante dovrà essere clandestino, perché se lo trovano lo ammazzano, lo uccidono, insomma. Va bene. Ha una modernità che è incredibile. Sì, è che non si riesce mai ad andare fino in fondo, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Perché? Sì. Perché poi siamo noi che cambiamo, cioè non è che noi scopriamo, siamo noi che cambiamo, quindi leggendolo in modo diverso capiamo determinate cose e ci fa andare avanti, ci fa progredire. Senti carissima, il tempo straordinariamente volato, mancano alcuni minuti alla chiusura. Giusto una volevo leggere ai nostri amici radioascoltatori una poesia che ho trovato nell'altro libro, nella Migratorio non sono le vie degli uccelli, che è molto breve, non so se mi dai l'autorizzazione. L'hai fatta precedere da una frase di Pound, tratta da Cantos: ciò che fai amare rimane, il resto è scoria, ciò che tu sai amare non sarà strappato da te. Sì. E adesso leggo la tua. Volevo intagliarmi il cuore per un sole nel tuo respiro, e mi sono trovata con tutti i battiti in una mano sola. Ho scolpito ad una le mie vertebre per farne gli anelli di una spina d'amore, lunghissima, dentro il tuo nome segreto. Poi mi sono allontanata dalla tua morte senza vedere che mi approssimavo alla mia, ed è da quella che ogni giorno rincomincio a cercarmi, battito a levare, anello e spina anch'io, oscura. Cara Hernanda, mi sa che ti dovremo richiamare un'altra volta, perché non c'è problema. Le cose da dire sono tante. E ti ringrazio, ti ringraziamo. Io ringrazio voi, mi sembra che ho parlato come, non so, La tela sonora, no, la tela sonora è la voce ai poeti, quindi noi vi chiamiamo, vi intervistiamo, vi lasciamo parlare, siete voi i protagonisti, non siamo noi. Ok, benissimo, grazie Fernanda, un bacio. Grazie anche a voi, un saluto, buonasera. A presto, ciao. Allora ragazzi, io vi volevo dire ancora due cose prima dell'ultimo pezzo di questo laboratorio Ripercussioni Sociali. Volevo giusto nominare due o tre partecipanti che sono poi artisti, musicanti, perché ognuno di loro ha una storia. Allora, iniziamo da Irian Lopez Rodriguez, Facundo Santiago Moreno, Cheike Sabidu Fall, Yana Odinova, Mohamed Ben Hamuda, Abderrekak El Aidei, Duo Mogador, Romanian Gypsy, Nadesh Yotimayananda, Kai Kundrat, Jennifer Ville, Olmo Andres Manzano Norve, Irian Lopez Rodriguez, nuovamente il suo ultimo pezzo. Tutti questi sono, sono persone che hanno, sono emigrate, sono figli di partigiani tunisini, arrivano dalla Russia, arabi, Marocco, c'è un po' di tutto. Sono tutti, si sono tutti riuniti in questo laboratorio sociale occupato, autogestita, Burritta. Ringraziamo Sandrino e Lorenzo per la registrazione e adesso lascio la parola alla mia amica Paola che vuole farvi ascoltare un ultimo pezzo. Vi salutiamo, oppure non so se avremo modo di salutare dopo. Cosa preferisci che facciamo, Paola? Penso che avremo modo di salutare. Ok, allora sentiamo ancora un brano di Palcoscenico. Sì. Ok, e a dopo per i saluti. Ja gento che sobom palcoscenico. Bene, cari amici, l'ultimo saluto. Ricordarvi anche che Giulietta la scorsa venerdì non c'era perché era al festival. E quindi abbiamo Revolution. Che hai visto? Che hai visto? Ho visto tutti. Giodorowsky, tutti quelli che Bertoli, contano, Marco Parente, Marco Parente, Giodorowsky. Quindi li salutiamo con anche la pièce di Brontis Giodorowsky. Benissimo. E li salutiamo, gli diamo un bacio. È stato un bellissimo festival e l'appuntamento per l'anno prossimo. Un bacio a tutti, a venerdì prossimo. Ciao. Grazie per essere rimasti con noi.